Ok, allora, lezione in posizione prona, pancia in giù e soprattutto per la parte alta della colonna vertebrale, la zona tra le scapole, il collo e le spalle. Allora, una lezione molto bella, però con molto lavoro in controtorsione, quindi non forzate questo lavoro. E è sempre messa prona con la testa che è sempre girata verso destra, non si gira mai a sinistra. Allora, cominciamo, siete in posizione supina, ad osservare gli appoggi delle varie parti del corpo, partendo dai talloni ed arrivando fino alla testa. Osservate come sono messi i polpacci, la parte posteriore del ginocchio, della coscia. Come appoggia il bacino a destra, a sinistra? Poi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Qual è più vicina alla colonna vertebrale, qual è più lontana? Come è messo il collo, la testa, come tenete la bocca? E poi passate ad osservare come sono messe le due spalle e le braccia. Adesso lentamente arrotolate prone a pancia in giù . Togliete i cuscini in modo da appoggiare la testa sul materassino, sulla suoia, ma senza cuscino, infatti non va bene dormire a pancia in giù col cuscino. Ruotate la testa a destra. Mettete il braccio destro piegato in alto davanti al viso e il braccio sinistro in basso lungo il fianco. Osservate come tenete le gambe e i piedi. Metteteli in modo che siano in una posizione comoda, quindi osservate se tendete a stare con le punte in dentro o fuori, o col piede appoggiato dritto sul dorso, e se un piede è uguale all'altro. E poi lentamente cominciate a dondolare il bacino a destra e a sinistra. Quindi una volta sollevate la parte destra del bacino e la muovete verso sinistra, come per andare sul fianco sinistro, e una volta sollevate l'anca, la parte sinistra del bacino, e la muovete verso destra, come per andare sul fianco destro. E man mano che dondolate il bacino a destra e a sinistra, osservate come passa e se passa il movimento nel resto del corpo. Ricordandovi che il movimento di una parte è il pretesto per coinvolgere piano piano tutto. Osservate se respirate fin dove arriva il movimento, se le scapole stanno ferme, si muovono. E man mano che dondolate il bacino a destra e a sinistra, immaginate che io con le dita salgo e le appoggio dal basso verso l'alto su una vertebra dopo l'altra, in modo da farvi mettere l'attenzione di com'è il movimento e come arriva a ogni ciascuna vertebra che tocco. Quali si muovono, quali non si muovono. Adesso mi blocco. Ok, vi fermate, vi riposate un po', se volete prone, pancia in giù o supine, come state meglio. E quando avete bisogno di riposo, anche se io non vi dico niente, smettete e mettetevi come vi trovate meglio. Bene, adesso mettete, siete sempre supine, prone, con la testa destra, il braccio destro in alto, piegato, poggiato a terra davanti al viso, braccio sinistro in basso, e questa volta sollevate la parte destra del bacino e la muovete verso sinistra in modo che faccia strisciare la gamba destra e la gamba destra arrivi a piegarsi, ma la gamba destra si piega e mentre l'anca destra si solleva per andare verso sinistra, il bordo interno del piede destro ruota verso dentro e quindi l'anca destra si solleva, va indietro, la gamba viene tirata, il ginocchio viene tirato dall'anca e il bordo interno del piede viene fatto strisciare verso il bacino in modo da piegare la gamba. Poi da là piano piano riallungate la gamba facendo strisciare il bordo interno. L'ideale è che quando cominciate a muovere l'anca, la prima cosa da fare è appoggiare per bene il bordo interno del piede destro, in modo che così, essendo appoggiato il piede, si muove il bacino e la schiena. Se tenete il piede sollevato, il bacino e la schiena si muovono meno. E quando tornate bene a pancia in giù, non rimanendo con le gambe un po' piegate o girate, e osservate come piegate la gamba destra. Ci sono due modi di farlo. Se volete potete provarlo, così lo sentite. In linea di massima, quando partite, il bacino è orizzontale, parallelo al pavimento. E osservate cosa succede quando piegate la gamba. Cosa succede quando piegate la gamba? Il corpo si sposta a sinistra. Il corpo si sposta a sinistra, quindi il bacino come tende a diventare perpendicolare al pavimento, non più orizzontale, parallelo, giusto? Sì. È come se andaste sul fianco sinistro. No. Ok, adesso allungate la gamba e facciamo l'altro modo che voi non fate, ma che fanno tantissime altre persone e che non c'entra con questa lezione, ma è un'abitudine che si ha ed è bene che lo sappiate. E in questo modo le persone ruotano sì il bordo interno del piede in dentro, però piegano la gamba muovendo il ginocchio in fuori e pochissimo l'anca, come quando si ha lezione di danza classica e si fa il lavoro di apertura, si apre l'inguine. Mi capite? Così? Sì, quindi in quel caso vi accorgerete che il bacino è più o meno parallelo al pavimento, non cambia tanto di posto. Non è più perpendicolare come prima, ma rimane come quasi come se foste appoggiate a pancia in giù. Giusto? Sì. Ok, adesso continuate a fare nel modo che vi ho chiesto, quindi fate partire il movimento dall'anca destra che si muove verso sinistra, che tira sulla gamba e fa piegare contemporaneamente il bordo interno del piede destro, si appoggia e poi riallungate il bordo, la gamba e tornate a pancia in giù, ricordandovi che il piede e il ginocchio non si muovono dall'esterno ma vengono piegati dritti. E continuate piano piano a fare un movimento e osservate come passa nella schiena. Osservate se questo movimento del bacino che va indietro verso sinistra, come per arrivare sul fianco sinistro, fa sì che pian piano la colonna vertebrale venga tutta fatta ruotare o se fate un maggior sforzo nella parte lombare. Ci sono vari modi di farlo, ci sono persone che muovono solo il bacino e tirano il bacino tenendo la parte lombare ancora più inarcata, aumentando la lordosi perché tengono bloccato, appoggiato completamente a terra il torace. Quindi c'è maggior sforzo e aumenta la lordosi lombare. Sono persone che invece, quando muovono la parte destra del bacino indietro, verso sinistra, in modo da piegare la gamba destra, oltre a muovere il bacino, permettono al movimento di passare lungo tutta la schiena senza bloccare il movimento nella parte lombare e quindi anche il torace un po' a vuota. Osservate se respirate. Ok, adesso rimanete con la parte alta messa com'è, sempre testa destra, braccio verso in alto, sinistra in basso e più volte piegate la gamba sinistra facendo lo stesso lavoro che avete fatto con la destra. Quindi piano piano sollevate l'anca sinistra in modo che si faccia strisciare e che tiri il ginocchio sinistro e che il bordo interno del piede sinistro si appoggi a terra. Movimento sempre molto lento, la testa sempre a destra, sì. Movimento molto lento senza forzare perché la testa è girata da una parte, la schiena dall'altra, quindi se eccedete vi può dare fastidio, un movimento lentissimo. Come dicevo nella lezione prima, non, lentissimo non significa faccio un movimento in fretta, arrivo, sto ferma, ritorno velocemente, sto ferma. No, è lentissimamente continuo fino a che arrivo al fine e dal fine subito lentissimamente torno. Quindi non c'è un movimento veloce, sto ferma tanto, ma un continuo muoversi e tornare. Muoversi e tornare. Ascoltando come passa il movimento. Attenzione che il piede sinistro non va in fuori. Siete a pancia in giù con le gambe allineate, allungate. Il piede e la gamba non sono in fuori, ma sono dritti e ruotate l'anca sinistra indietro verso destra piano piano, piegate un po', tirando con l'anca sinistra, tirate il ginocchio sinistro e appoggiate il bordo interno del piede sinistro. Quando allungate la gamba, non allungate il piede in fuori a sinistra, ma in basso, dritto. Quindi arrivate, quando siete arrivate in fondo, a pancia in giù con le gambe allungate, non con le gambe aperte o con la gamba sinistra in fuori. Ok, e adesso continuate e alternativamente piegate una volta una gamba e una volta l'altra. La testa è girata verso destra con la guancia sinistra a terra, il braccio destro in alto piegato davanti al viso appoggiato a terra e il braccio sinistro è verso il basso. Vi fermate, vi mettete a subire, vi riposate un attimo. E quando siete a pancia in su, supine molto lentamente con un movimento molto molto piccolo e molto molto lento, ruotate la testa a destra e a sinistra. Piccolo e lento significa di millimetri. E poi lasciate andare, dopo quanto osservato, più o meno da che parte ruota meglio, ritornate prone, pancia in giù con la testa verso destra. E la guancia sinistra ferma. E questa volta avete il braccio sinistro in alto, piegato, e il braccio destro in basso, lungo il campo. Testa girata verso destra. Testa a destra, guancia sinistra a destra, braccio destro in basso, lungo il fianco, braccio sinistro in alto, piegato dietro la testa. E cominciate molto lentamente a fare lo stesso movimento, quindi sollevate l'anca destra, ruotate verso sinistra, l'anca destra, fa strisciare il ginocchio destro, lo tira, il bordo interno del piede si appoggia a terra e piegate la gamba. E poi piano piano la riallungate e continuate. Se Se strisciare col ginocchio sul pavimento vi fa male, mettete un cuscino, un asciugamano, qualcosa sotto il ginocchio in modo che vi dia meno fastidio. E permettete alla parte destra del bacino di muoversi bene indietro verso sinistra e non il ginocchio in fuori verso destra, come per fare il lavoro di apertura della danza classica, dove il bacino in pratica rimane fermo e non si muove. Poi riuscite ad andare, fate la stessa cosa con la gamba sinistra, destra sempre girata a destra, molto lentamente, muovete l'anca sinistra verso destra, sollevate la terra e con l'anca tirate la gamba sinistra che sale e il bordo interno del piede sinistro. Si appoggia a terra e poi riallungate tutto, osservando come respirate, cosa succede nelle vertebre, nelle costole, nelle scapole. Ed ora alternate, piegate una volta una gamba e una volta l'altra, osservando se respirate, osservando se aumentate l'arco lombare mentre rotondolate il bacino, o se permettete anche la parte alta della schiena di muoversi. Se lasciate che le costole e il torace si muovano o lo tenete fermo spiaccicato a terra. Ok, rotolate di nuovo, pancia in su, supine, deformate. Lentamente, dopo essere riposate, a ruotare la testa da una parte all'altra, sempre di millimetri. Più il movimento è piccolo e di millimetri, più riuscite a percepire quanto e da che parte effettivamente ruota la testa di più e dove c'è il blocco. Se invece fate un movimento veloce e ampio, il collo viene forzato, non c'è l'ascolto, la percezione e non vi rendete conto dove effettivamente la testa si muove con facilità o meno, e infatti è tutto muovervi a caso. Lasciate andare, e quando siete pronte, lentamente ritornate su pinne e crone. Pancia in giù, testa a destra, pancia a sinistra a terra, mano sinistra lungo il fianco e la mano destra la appoggiate sull'orecchio destro in modo da tenere ferma la testa. No, mano destra sull'orecchio destro. Mano destra sull'orecchio destro. Perché? Perché in questo modo finora ho lasciato la testa libera, quindi potete anche muoverla adesso, pian piano la teniamo fissa in modo che sia costretta a muoversi ancora di più la colonna vertebrale. Ora in questa posizione piano piano cominciate a piegare la gamba destra come abbiamo fatto prima. Muovete l'anca destra, sollevate, la muovete a sinistra, tirate il ginocchio, contemporaneamente lasciate per bordo interno del piede, tocchi a terra e piegate la gamba. Dopodiché la riallungate. Ricordatevi che il movimento non è come danza, vale a dire quando piegate la gamba il bacino diventa perpendicolare a terra, non rimane orizzontale fermo come se fosse a pancia in giù, ma si muove verso sinistra come per arrivare sul fianco sinistro. Quindi il ginocchio destro non va in fuori sul pavimento, ma lo tirate in su dritto verso la pancia. E osservate ancora una volta, mentre fate il movimento, come passa nella schiena. Se si blocca nella parte lombare, nella cintura, o se muovete anche il torace, le vertebre toraciche. Cosa fanno le spalle? Ok, adesso tenete sempre la mano destra sulla testa, allungate la gamba a sinistra e fate la stessa cosa con la gamba destra. Allungate la gamba destra, scusate, e fate la stessa cosa con la gamba a sinistra. Osservando se il movimento dal bacino passa lungo tutta la colonna vertebrale, il torace. Benissimo, adesso alternate, piegate una volta la gamba destra e una volta la gamba sinistra, la testa è sempre ruotata a destra con la guancia sinistra per terra e con la mano destra appoggiata sull'orecchio destro in modo da tenere fermo l'orecchio e la testa. E questo rotolio del bacino della gamba che si piega passa piano piano lungo tutte le vertebre. Quindi tutto si muove, le vertebre, osservate se le costole si muovono come se fossero di gomma, di scapole. Osservate se respirate, se tenete la bocca morbida. E rotolate un po' supine e riposate. E quando siete pancia in su, rotate la testa, destra e sinistra, osservando come la ruotate, se migliora un po' la rotazione della testa, sempre si tratta di millimetri. E di movimento molto lento. Poi vi riposate, osservate se c'è qualche piccolo cambiamento nell'appoggio della schiena, delle tracce, delle scapole. E poi lentamente arrotolate ancora prone a pancia in giù, sempre con la testa girata a sinistra, a destra. Mettete il braccio destro in basso, lungo il fianco destro, la mano destra appoggiata sull'orecchio destro, quindi braccio, ho sbagliato a dirmi, forse la mano, il braccio destro è in basso lungo il fianco destro e la mano sinistra è in alto piegata in modo da appoggiarsi all'orecchio destro. Testa destra. Testa destra, braccio destro in giù, mano sinistra appoggiata sulla testa in modo da prendere l'orecchio destro. E adesso ancora una volta muovete l'anca destra, dondolate il bacino, sollevate l'anca destra, che tira il ginocchio, che tira la gamba, ruotate il bordo interno del piede fino ad appoggiarlo a terra e piegate la gamba destra. E poi la riallungate. Ricordatevi di evitare, attenzione che vedo che fate tipo danza, il ginocchio viene tirato dall'anca in su, verso di voi, verso la pancia, verso il bacino, non in fuori. rimanendo col bacino più o meno parallelo a terra, ma il bacino diventa quasi perpendicolare a terra, come per rotolare sul fianco sinistro. E osservate come questo movimento, e se arriva fino nel collo, lo sentite proprio nelle prime vertebrine, quelle alte, cervicali che si inseriscono nel cranio. Osservate se state respirando. Se avete l'idea del torace come se fosse di gomma, con tutte le costole e lo sterno che si muove, oppure come se fosse un'armatura che sta bloccata e non si muove. E osservate cosa fanno le spalle, cosa potrebbero fare le spalle, le scapole. Tenete ferma la gamba destra e fate la stessa cosa piegando la gamba sinistra, quindi la testa è sempre girata a destra, il braccio destro in basso lungo il fianco destro appoggiato a terra, la mano sinistra è il braccio sinistro piegato con la mano sinistra appoggiata sull'orecchio destro, sollevate l'anca sinistra che tira la gamba, fa piegare il ginocchio sinistro mentre appoggiate il bordo all'interno del piede e piegate la gamba di lato a sinistra molto molto lentamente, osservando come passa questo movimento in tutto il bacino, in tutta la schiena. Osservate se respirate, come tenete la bocca. E adesso piegate una volta una gamba e una volta l'altra, quindi dondolate il bacino a destra e a sinistra. e vi fermate e mettete pancia in su. Potete, se volete, ruotare sempre la testa quando vi riposate in modo da liberare un po' il collo nel caso fosse un po' teso. E ritornate pancia in giù, prone, testa sempre a destra, guancia a sinistra a terra, gambe allungate, intrecciate le dita delle mani e le mettete dietro la testa. Dietro la testa significa verso il soffitto, quindi le mani col palmo stanno appoggiate sulla testa, no, non il vertice, sull'orecchio. Le mani col palmo stanno appoggiate sopra la testa e la tengono ferma, perché adesso in questa posizione vi chiedo lentamente di rondolare il bacino destra e sinistra piegando le gambe. Una volta l'una e una volta l'altra. Piano, piano, piano, piano. Il movimento parte dall'anca, del lato che sollevate, non dalle gambe. Le gambe vengono come trascinate. E vi riposate un po', se volete potete girare la testa a sinistra, la metà pancia in giù. Ok, adesso girate la testa destra, braccio destro piegato davanti a voi, braccio sinistro lungo il fianco, rimanete messe pancia in giù, posizione comoda, e in questa posizione pian piano dondolate il bacino avanti e indietro, quindi una volta premete la pancia sul pavimento e una volta la tirate indentro. Quindi il bacino dondola, una volta va in fuori, più poche, e una volta va in dentro. Senza contrarre troppo i glutei. Movimento lento, senza irrigidirsi. La pancia, l'addome, una volta viene premuto per terra e una volta viene tirato indietro. Vi fermate e adesso, sempre con la testa girata a destra, braccio destro in alto, sinistro in basso, piegate la gamba destra e la tenete piegata. Col bacino indietro, verso sinistra. E messa in quella posizione, dondolate ancora il bacino avanti e indietro. Anche la retroversione del bacino, appiattite e incurvate la parte lombare. Attenzione che il bacino che muovete avanti e indietro è per che sia fermo. Le ossa del bacino, il bacino proprio. Dondola avanti e indietro. Quindi la schiena sinistra si appiattisce. Piegate la gamba a sinistra, allungate la destra e fate la stessa cosa con la gamba a sinistra piegata. La testa destra col braccio sinistro lungo il fianco in basso, braccio destro piegato in alto, gamba a sinistra piegata, tenendola piegata, appoggiando il bordo interno del piede e dondolate il bacino avanti e indietro. Allungate la gamba Mettete braccio sinistro in alto, piegato, braccio destro in basso. Piegate la gamba destra, la tenete piegata. E molto lentamente, anche in questa posizione, dondolate il bacino avanti e indietro, movimento molto molto piccolo, molto molto lento. Attenzione, il bacino non è orizzontale, è parallelo al pavimento, come se fosse quasi a pancia in giù, ma è perpendicolare, come se foste col bacino sul fianco sinistro. E rimanete ferme con il braccio sinistro in su, testa a destra, braccio destro in giù, allungate le gambe e piegate la gamba a sinistra e rimanete ferme in quella posizione. E con la gamba a sinistra piegata, rimanendo ferme con la gamba a sinistra piegata, piano piano, dondolate ancora una volta il bacino avanti e indietro. E vi fermate a pancia in su e riposate un attimo. Ruotate pure la testa da una parte e dall'altra. Vi riposate un po', state ferme. E poi ritornate a pancia in giù, con la testa girata ancora una volta a destra. Braccio destro piegato in alto davanti a voi. Braccio sinistro in basso, piegate la gamba destra, la tenete piegata. E tenendo la gamba destra piegata e la testa sempre girata col viso e il naso a destra, sollevate la testa e descrivete con la testa come se fosse la punta di un aviro, una penna, un cerchio. specchio sulla parete davanti a voi. Di avanti non intendo dire davanti alla faccia, ma la parete che è sopra la testa. La parete che non è verso i piedi è dalla parte opposta. Però la testa è sempre girata a destra. Quindi il movimento è fatto con il collo, perché la testa no, il naso è sempre girato a destra. Quindi la testa è sempre girata verso destra. E quindi il movimento è fatto con la colonna vertebrale, collo, colonna vertebrale, e forse vi accorgerete che quel movimento di prima, di dondolare il bacino avanti e indietro, vi aiuta facendo sì che anche il bacino contribuisca al movimento. E invertite il senso. E riposate. E adesso braccio destro in basso, sinistro in alto, piegate la gamba sinistra, la tenete piegata. E tenendo la testa a destra, descrivete tutto quanto un cerchio. Testa ferma girata a destra, immaginando che la testa sia la punta di una penna biro, con questa punta sulla parete davanti a voi disegna un cerchio. Davanti intendo quella sommità del vertice del capo, non a destra dove è girata la testa. Ok, allungate le gambe, mettete braccio destro in alto, piegato, sinistro in basso. E rifacciamo il primo movimento in modo da osservare se rispetto a prima c'è differenza. Quindi, piano piano, dondolate in questa posizione il bacino a destra e a sinistra. Rotolate supine e cominciamo ad osservare gli appoggi. Partite dai piedi, talloni, osservate come appoggiano i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. come appoggio il bacino, destra, sinistra. E poi come appoggia tutta la colonna vertebrale, cominciando dal coccige, salendo fino al collo e alla testa. Quindi come appoggia il coccige, quanto distano l'osso sacro, la parte lombare. Se la zona toracica si è un po' appiattita, portando le vertebre, le costole. Mi sono messe le spalle, le scapole. Collo, la testa. E infine come sono messe le spalle e le braccia e le mani. E quando siete pronte, lentamente arrotolate su un fianco, quello che vi piace di più, vi sedete e piano piano rialzate. E quando siete in piedi, osservate come siete in piedi.